Buonasera a tutti e benvenuti su Radio UFOcast, la radio che fa riferimento al sito www.ufomachine.org. Io mi chiamo Caruso Colzi e stasera sarò in compagnia dell'amico e collega Michele Valeriani, il quale avrà il compito di fare l'intervista di stasera al nostro ospite. Vorrei prima di cominciare informarvi che la puntata di stasera la potrete trovare scaricabile gratuitamente nel nostro sito ufficiale http://ufocast.ufomachine.org, dove ovviamente potrete trovare anche tutte le altre puntate di Radio Ufocast. Ecco, e adesso vorrei parlarvi di come si svolgerà la puntata di stasera. Vi comunico subito il tema della serata, che verterà appunto sulle scie chimiche e tutto quello che ci sta dietro a questo fenomeno. L'ospite che avremo in redazione è considerato uno dei maggiori esperti in questo campo. Ma intanto vorrei salutarlo, il nostro ospite, e dargli la buonasera. Signore e signori, è con noi Rosario Marcianò. Buonasera ragazzi, grazie per avermi invitato. Grazie a te per aver accettato, Rosario. Senti, vorrei dire ai nostri radioascoltatori che possono trovare molte, molte informazioni su di te e su quello che fai sul tuo sito di riferimento, che è www.tankerenemy.com, oppure c'è anche un altro sito di riferimento che è www.tanker-enemy.tv. Senti Rosario, ci puoi parlare un po' tu di questa passione e di quando è cominciata? Ma alle volte le cose sembrano disegnate come per un destino già scritto. Io sono sempre stato un appassionato di aeronautica fin da quando ero bambino e quindi poi nell'adolescenza ho raccolto una collezione infinita di enciclopedie e fotografie e videocassette e via discorrendo che avevano come argomento centrale l'aeronautica, sia militare che civile. Poi, malauguratamente, nel 2005 ho notato che c'era qualcosa che non andava nei cieli di Sanremo all'improvviso, era un sabato pomeriggio del 2005, e così chiaramente, avendo già una cognizione di base di quello che era l'aeronautica, di quelle che erano le situazioni a livello atmosferico, di impatto per quanto riguarda la questione della condensa e via discorrendo, chiaramente mi resi conto subito, senza dover fare chissà quali verifiche, che qualcosa di anomalo stava succedendo nei nostri cieli, tant'è che quel sabato il quartiere fu sovrastato da decine di scie di tipo persistente che in breve tempo oscurarono il cielo completamente. Bisogna dire che nel 2005 le tecniche di rilevazione erano molto meno sofisticate di oggi e quindi le coperture erano molto più evidenti, come anche erano molto più evidenti le scie che adesso spacciano, che hanno sempre spacciato per scie di condensa, ma che vedremo non lo sono. Volgarmente dette scie chimiche, potremmo definirle più tecnicamente operazioni di geoingegneria, sarebbe più corretto e sarebbe anche meno esposto al ridicolo chi ne dovesse parlare. Vedremo, poi spiegherò nei dettagli perché per me era un fenomeno strano. Quindi, avendo questa, involontariamente avendo ottenuto questa cultura negli anni sul fenomeno della condensazione, sui carburanti, sui motori, sia a reazione sia a scoppio, mi resi conto che evidentemente nei nostri cieli stava succedendo qualcosa di strano. E cominciai a informarmi e mi resi conto che effettivamente questo scempio era ormai una cosa comune negli Stati Uniti da diverso tempo ed anche in Europa da alcuni anni. In Italia le prime operazioni sicuramente sono iniziate attorno al 99-2000 e poi a tappeto hanno cominciato a coprire tutto il paese. Io so che tu sei il presidente del Comitato Nazionale Tanker Enemy. Prima non l'ho detto perché vorrei che spendessi due parole su farci capire quando è nato questo comitato e di cosa si occupa. Ma faccio un excursus indietro. Nel 2005 il primo a notare le scie chimiche fu mio papà, buonanima, che purtroppo è scomparso il 3 di aprile di quest'anno. Fu fu lui a notarle veramente, fu lui che ci chiamò, era sul terrazzo e mi disse: Rosario, vieni a vedere che cosa sta succedendo. E quindi da qui nacque la necessità prima di informarsi. Dopodiché io e mio fratello decidemmo di agire in questo modo. Prima scrivemmo degli esposti che inviammo a diverse procure, la procura di Milano, la procura di Torino, la procura di Sanremo. Facemmo la stessa cosa, segnalamo al sindaco dell'epoca, che era un sindaco di sinistra, bisogna dire che sinistra e destra non cambia assolutamente niente. Dopodiché pensammo bene di cominciare a fare qualcosa di costruttivo, quindi all'epoca non c'era niente in Italia su questo argomento, c'era un forum che poi più tardi fu acquisito dai servizi. Noi all'inizio avevamo dato una mano per cercare di attirare degli iscritti su questo forum sul quale non c'era nessuno, e quindi per un annetto andammo avanti con quello. E poi contestualmente, nello stesso periodo più o meno, mettemmo online il blog tankeremi.com. Su questo blog cominciamo a pubblicare degli articoli che dovevano essere, diciamo, all'inizio un'analisi del fenomeno da un punto di vista strettamente personale, e poi mano a mano chiaramente il blog si espanse anche a livello di collaboratori esterni e riuscimmo ad ottenere anche attraverso la ricerca e le traduzioni di articoli e ricerche fatte all'estero, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, riuscimmo a mandare su una serie notevole di articoli, a mettere online una serie notevole di articoli che erano un buon punto di riferimento e di appoggio per avere dei riscontri oggettivi rispetto a quello che la gente cominciava ad osservare. Chiaramente non bastava, quindi aprimmo un canale video su YouTube che nell'arco di un anno ci fu chiuso, proprio su richiesta di Rai 3. Ricominciamo da capo con un altro canale e poi decidemmo di aprire un canale proprio, che appunto è tanker-enemy.tv, proprio perché immancabilmente ogni volta che c'era qualche contenuto che poteva dare fastidio ci veniva fatto cancellare. È chiaro che non poteva essere una situazione gestita in quel modo perché era un lavoro di Penelope, bisognava rifare sempre tutto da capo. E, chiaramente avendo raggiunto un buon numero di lettori, adesso siamo quasi a 3 milioni di letture solo sul blog, e avendo chiaramente raccolto un po' di collaborazioni, decidemmo di istituire un comitato. All'inizio era l'idea di un comitato sanremese, però poi ci rendemmo conto che effettivamente per dare la possibilità a qualunque cittadino in Italia di potersi iscrivere, l'idea definitiva fu quella di un comitato nazionale. Comitato che all'inizio fu costituito da me, mio fratello e una collaboratrice che ancora adesso è segretaria del medesimo comitato, e poi mano a mano si sono iscritte, adesso siamo a 267 iscritti. Diciamo che considerando che è un comitato nazionale, effettivamente 267 iscritti possono sembrare pochi, però tenendo conto del cover up e della poca consapevolezza che c'è in giro e anche del fatto che molte persone collaborano con noi ma non sono iscritte e collaborano, diciamo, a livello così in incognito, perché questo è un argomento che comporta diverse conseguenze abbastanza gravi se ti esponi troppo. È chiaro che gli iscritti sono anche da considerare un buon numero tenendo conto di questa situazione. Quindi inevitabilmente sono diventato il presidente del comitato, non per darsi importanza, ma semplicemente perché chiaramente il comitato è nato qui, tra le mura di questa casa. Ecco. Senti Rosario, io intanto ti ringrazio per adesso per averci parlato un po' di te. So Grazie. che Michele sta trepidando per farti delle domande veramente approfondite e parlando appunto con i radioascoltatori vi sarete sicuramente accorti già dalle prime battute che Rosario Marcianò è un personaggio che ne sa a pacchi proprio su questo argomento. Siamo contentissimi di averti in trasmissione. E quindi noi ci risentiamo magari in fondo per i saluti finali e passerei la parola a Michele Valeriani. Ci sei, Michele? Eccomi, eccomi. Bene, Rosario, sei Grazie. stato abbondantemente presentato dal nostro Caruso e ci hai spiegato, abbiamo capito chi sei e di che cosa ti occupi. Cominciamo adesso subito ad affrontare di petto l'argomento di questa sera, la questione scie chimiche. Scie chimiche, irrorazioni clandestine, questo fenomeno già da un po' se ne sente parlare, diciamo, nell'underground di internet, attraverso la controinformazione, attraverso i mezzi così un po' non ufficiali. Ma che cosa sono queste scie chimiche? Proprio in termini estremamente semplici, l'uomo della strada, il cittadino normale, che non è magari molto preparato su certe tematiche, non conosce l'aeronautica, non conosce gli aerei, che cosa deve guardare? Dove deve guardare per riconoscere questo fenomeno e per prenderne coscienza? Intanto ciao Michele e grazie anche a te per avermi dato modo di parlare alle persone di questo cruciale argomento. Rispondo immediatamente alla tua domanda. Intanto il termine scie chimiche deriva dal termine inglese chemtrails o chemical trace, quindi diciamo è una traduzione immediata di quello che è il termine che è stato adottato all'inizio degli anni 90 quando furono notate le prime attività di aerosol clandestine nei cieli del Canada e successivamente nei cieli degli Stati Uniti. Chemical trace o chemtrails sono diventate scie chimiche. Diciamo che, come già accennavo prima, definire scie chimiche le attività di aerosol clandestine è un termine abbastanza generico, superficiale e spesso fuorviante, perché in effetti anche le scie di condensazione possono essere definite scie chimiche, in quanto, al contrario di quanto ci viene detto da certi luminari, come, che ne so, tanto per fare un nome, il colonnello De Simone, non si tratta di vapore acqueo, si tratta semmai di gas incombusti, si tratta di un buon numero, ma veramente un numero sostanzioso, direi almeno una quarantina di componenti chimici derivati dalla combustione del carburante per jet civile o del carburante per jet militare. Sono carburanti tossici e cancerogeni, tant'è che spesso il personale che è a stretto contatto con questi carburanti e anche il personale di bordo, come anche i passeggeri, faccio riferimento ad esempio alla sindrome aerotossica, della quale si può trovare diversi documentari tedeschi, americani e britannici sulla rete, non si può trovare certo materiale in Italia dove ci si occupa solo di veline. Questi carburanti, dicevo, sono estremamente tossici e quindi anche le scie di condensa sono da definire prodotti chimici e quindi scie chimiche. Però, come si diceva, genericamente tutto quello che ha a che vedere con una attività indotta di irrorazione sulle città, sulle zone abitate, sulle zone coltivate. Si badi bene, queste scie non compaiono nelle zone desertiche e quindi dove non c'è coltivazione, dove non ci sono coltivazioni, dove non c'è popolazione. Queste vengono definite chemtrails o scie chimiche. Da un certo punto di vista è anche corretto, tanto per differenziarle dalle contrails, cioè le scie di condensazione. Allora vediamo che cos'è una scia di condensazione, come si forma e qual è la differenza sostanziale che noi possiamo trovare immediatamente tra una scia di condensa o contrail e una scia cosiddetta chimica oppure chemtrail. Intanto distinguiamo una cosa importante. Il termine contrail viene coniato la prima volta nel 1947. Quindi non è assolutamente vero che il problema era arcinoto già dai tempi dei fratelli Wright. Non è assolutamente vero. È un fenomeno talmente raro che non è mai stato tenuto in considerazione, tant'è che su enciclopedie antecedenti agli anni 90, parlo di enciclopedie cartacee, la parola contrail non è assolutamente citata, tantomeno la parola scia di condensa. Che ne so, faccio un esempio banale. Prendiamo la vecchia enciclopedia Treccani, oppure prendiamo l'enciclopedia Motta, o prendiamo qualsiasi altro tipo di enciclopedia, che ne so, l'enciclopedia Conoscere che si usava si comprava per i ragazzini che facevano le medie negli anni 70. Su queste enciclopedie, ma anche appunto su altre più blasonate e costose, il termine scia di condensa oppure contrail non esiste. E questo a dimostrazione del fatto che, al contrario di quanto ci viene mostrato oggi, le scie di condensa sono un fenomeno rarissimo. Tant'è che facendo dei calcoli, rispetto a quella che è la frequenza delle scie rispetto alle condizioni ambientali, una scia di condensa alle nostre latitudini ha 2,8 possibilità su 100 che si possa formare durante il giorno, in un periodo invernale. Quindi questo Quindi è può. un evento assolutamente raro, insomma. Ma allora quello che vediamo in cielo, tutte queste strisce, queste striature biancastre, che cosa sono? Non ce n'è nessuna, se non pochissime, che possa essere definita una scia di condensa. Sono tutte dovute a irrorazione indotta. Tanto per concludere, ci sono diversi testi cartacei che sono incontestabili in quanto sono stati scritti prima degli anni 90, quindi prima dell'inizio effettivo delle attività di aerosol, che poi sono collegate ad altre attività delle quali parlerò. Su queste riviste cartacee scientifiche si parla dei parametri necessari per la formazione di una scia di condensa. Adesso ne dovrei trovare una al volo, intanto prima di leggervela attraverso gli estremi esatti, sicuramente ve la posso dire a memoria. Normalmente le condizioni affinché si possa formare una scia di condensa sono 8000 metri di quota almeno o superiori, sono meno 40 gradi centigradi, quindi 40 gradi centigradi sotto zero, e livelli di umidità relativa vicini o superiori al 70%. Questo che cosa significa? Che tutti gli aerei che vediamo noi e che rilasciano delle scie sono aerei che rilasciano scie di condensa? Apparentemente potrebbe anche sembrare di sì, tant'è che questo ci dicono, cioè ci dicono che il traffico aereo è aumentato, ma non è vero, ci dicono che quelle che vediamo sono scie di condensa degli aerei di linea. Ma se osserviamo bene, quando abbiamo la fortuna di vedere ancora dei cumuli, che sono delle nubi di tipo basso, che stanziano a quote comprese tra i 600 e i 2000-2300 metri di quota al massimo, possiamo notare che queste scie intersecano perfettamente, se non addirittura volano al di sotto dei cumuli. E quindi sono aerei che sorvolano a non più di 2000 metri di quota. Questo cosa significa? Che se, come dicono i manuali, per formarsi una scia in condizioni idonee, l'aereo deve volare almeno ad 8000 metri di quota. Questi aerei che volano a 2000 metri di quota, come fanno a rilasciare delle scie di condensa? La condensa è un fenomeno che noi possiamo notare, per esempio, sui vetri di casa, quando dentro teniamo il riscaldamento acceso e fuori fa freddo. Deve fare molto freddo fuori e ci deve essere molto caldo dentro. E al di fuori, cioè nell'ambiente esterno, ci deve essere molta umidità. Se non c'è molta umidità, le goccioline d'acqua sui vetri non si formano. Eppure, ultimamente la disinformazione sta spargendo la voce in giro. Faccio un nome, noi possiamo per esempio parlare del chimico Simone Angioni del CICAP, il quale afferma testualmente che le scie di condensa si possono formare anche con una umidità pari allo 0%. Non è possibile, perché se noi facciamo appunto il paragone col fenomeno della condensa al di fuori di un vetro, non possiamo assolutamente immaginare che senza umidità si possano formare delle gocce d'acqua. Com'è che si forma la condensa dietro agli scarichi di un motore? Un motore emette dei gas incombusti ad alta temperatura. Possiamo passare dai 300 ai 700 ai 1200 gradi centigradi di temperatura, dipende dal tipo di motore. I gas sono estremamente caldi. A contatto con l'aria molto fredda in alta atmosfera, i gas estremamente caldi si possono trasformare in goccioline d'acqua o in cristalli di ghiaccio. Questo genera quella che poi noi vediamo come una scia che viene definita appunto scia di condensa. Questa scia di condensa in condizioni normali può durare qualche secondo, una manciata di secondi, o al massimo un paio di minuti, poi si dissipa e trattandosi comunque di un fenomeno di evaporazione non deve lasciare delle tracce in atmosfera. E questo tenetelo bene a mente perché dopo ci tornerò. Invece cosa notiamo noi? Notiamo che spesso queste scie non solo persistono, ma si espandono fino a coprire completamente il cielo. E tenete conto che a queste altezze l'umidità relativa è sempre molto bassa, cioè sopra gli 8.000 metri di quota, man mano che si sale fino ai 13.000, l'umidità cala fino a valori prossimi allo zero. Ed ecco che allora questi valori che vengono anche menzionati originariamente dalla NASA, cioè 8.000 metri di quota almeno, 70% di umidità relativa e 40 gradi sotto zero, non possono essere sempre concomitanti. Per cui non è detto che una scia ad alta quota si debba formare, perché laddove c'è la bassa temperatura, spesso e volentieri non c'è umidità sufficiente. Benissimo, qui posso citare quanto viene detto sul manuale Girolamo Sansosti e Alfio Giuffrida, manuale di meteorologia, una guida alla comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici in collaborazione con l'UAI, Unione Astrofili Italiani. Il manuale è del 2006. Testualmente dice: l'immissione in atmosfera dei gas di scarico degli aerei, ricchi di nuclei di condensazione e di vapore acqueo, determina la sovrasaturazione del vapore acqueo e quindi la formazione di scie. Le scie di condensazione si formano ad altezze in cui la temperatura dell'aria è molto bassa, inferiore ai 40 gradi centigradi, con umidità relativa almeno del 60%. Ora, invece, ci viene detto, dalla disinformazione organizzata sulla rete e non, che le scie di condensa si possono formare anche con umidità pari allo 0%. Allora vuol dire che quanto è scritto su questo manuale, che comunque è al di là di ogni sospetto perché è del 2006, quello che dice questo manuale è errato? Non credo proprio. Quindi questo è il primo fattore di dubbio, cioè lasciamo perdere la questione delle quote, cioè noi abbiamo potuto dimostrare con vari sistemi, sia la propagazione del suono, sia il sistema della trigonometria, sia il sistema fotografico, sia il sistema visivo, quindi di parametro rispetto ai cumuli e ai cumulonimbi, abbiamo potuto vedere che questi aerei volano a quote non superiori ai 3.000 metri di quota. Però possiamo anche notare, ribadisco, che gli aerei che volano alle quote di crociera, quindi gli aerei di linea, che volano dai 9.000 dagli 8.500 agli 11.000 metri di quota, non sempre debbono o possono rilasciare scie di condensa, perché è vero che le temperature lì sono spesso molto basse, ma i valori di umidità lo sono altrettanto. E se quindi diamo credito a quanto c'è scritto su questo manuale che ho appena citato, chiaramente possiamo ben notare che quante scie, tutte le scie che noi vediamo in cielo, non sono scie di condensa, ma sono appunto scie chimiche, cioè sono dovute a irrorazione volontaria. Che cosa c'è in queste scie chimiche? Allora, le scie chimiche innanzitutto bisogna vedere perché nascono, e quindi mi riaggancio al cenno che avevo fatto prima. Le scie chimiche nascono attorno agli anni 90 in base a un progetto che viene detto, e lo conoscono tutti ormai, è un progetto che viene definito HARP. Esistono diverse basi HARP nel mondo, almeno 5, anche se non ufficialmente ce ne sono almeno una ventina, che emettono delle onde a bassissima frequenza in atmosfera. Sono definiti dei riscaldatori ionosferici. Affinché queste stazioni possano lavorare bene, c'è bisogno di un'atmosfera elettroconduttiva. Ecco quindi che questi aerei, sia militari sia civili, e poi vedremo come e su mandato di chi, devono diffondere in atmosfera metalli elettroconduttivi in nanoparticelle. E quindi soprattutto, e poi il riscontro ce l'abbiamo avuto nelle analisi delle acque piovane, anche chiaramente degli alimenti a terra, però la cosa importante sono le acque piovane non contaminate, quindi raccolte direttamente, la presenza di metalli pesanti, in special modo alluminio, bario, manganese, ferro, rame. Diciamo che il maggior numero di metalli presenti sono questi. Poi abbiamo altri elementi che sono per esempio il litio, sono il carbonato di calcio, poi troviamo il silicio, troviamo altri prodotti che sono di base nanotecnologica, quindi sono dei veri polimeri a base di carbonio. Quindi questi elementi devono essere dispersi in atmosfera affinché certe stazioni e certe emissioni radio a bassa e a bassissima frequenza possano fare bene il loro lavoro, perché senza atmosfera elettroconduttiva, quindi che trasmetta bene le onde elettromagnetiche e l'elettricità e a bassa umidità, senza questo tipo di atmosfera, certi tipi di segnali, come anche i satelliti di ultima generazione in banda Kappa, non funzionano. Infatti noi abbiamo avuto il riscontro diverse volte, lo possiamo avere all'infinito, ogni volta che ci sono le attività di aerosol in atmosfera, l'umidità precipita. Questo perché gli elementi che vengono dispersi sono elementi igroscopici, cioè asciugano l'umidità atmosferica e quindi diminuiscono quella che è alla fine l'umidità relativa. È un controsenso perché se noi vediamo tante scie in cielo e l'umidità è precipitata improvvisamente in poche manciate di minuti dall'80% al 25%, non ci possiamo spiegare come sia possibile che ci siano tutte quelle scie in cielo quando ci viene detto al contrario che quelle scie si sono formate perché l'umidità evidentemente era molto elevata. C'è qualcosa che non va. Eppure effettivamente se andiamo a vedere nei dettagli le cose stanno veramente in questi termini. Quindi mi sembra di capire che queste scie chimiche sono formate dal rilascio di sostanze come l'alluminio, il silicio, il bario, eccetera, con lo scopo praticamente di migliorare le radiocomunicazioni, di migliorare le prestazioni degli apparati di trasmissione, diciamo, a scopo militare e probabilmente anche per far variare le caratteristiche dell'umidità dell'aria. Ma tutte queste sostanze, Rosario, che effetti hanno sulla salute, sull'ecosistema e cosa ci provocano a noi che le assorbiamo? Allora, intanto voglio precisare che quando noi vediamo queste larghe scie che si espandono, l'effetto viene dato sicuramente dal trimetilalluminio, che tra l'altro abbiamo visto essere stato ordinato in grandi quantitativi dall'esercito, dall'aeronautica italiana. Ogni anno il Parlamento dà l'autorizzazione per uno stanziamento di milioni di euro per il trimetilalluminio. Il trimetilalluminio è un comburente che viene usato per la missilistica. In Italia non è che abbiamo molta industria per quanto riguarda il lancio di missili e satelliti, quindi questi finanziamenti per milioni di euro in tonnellate di trimetilalluminio sono chiaramente sospetti. Il trimetilalluminio a contatto con l'ossigeno, quindi con l'aria, si espande come se fosse schiuma epossidica e nel contempo prosciuga l'umidità atmosferica. Quelle scie che noi vediamo ad espandersi sono molto probabilmente il risultato dell'emissione tra i vari componenti di trimetilalluminio. Non a caso il trimetilalluminio è in formato liquido ed essendo un ottimo additivo può essere usato tranquillamente nei carburanti perché diminuisce i consumi ed aumenta le prestazioni. Nel contempo, cosa fa? Diminuisce l'umidità atmosferica e serve da portante per tutte le altre sostanze che vengono irrorate. Il bario, per esempio, se andiamo a vedere sulla famigerata Wikipedia, il bario dove viene ricoverato? Dove può essere messo, conservato il bario affinché non si rovini? Nel cherosene, perché lì non c'è presenza di ossigeno. Quindi ho detto tutto, non c'è nessun problema a spruzzare soprattutto queste due sostanze. E per tornare alla tua domanda, quali sono gli effetti? Gli effetti sono chiari. Intanto bisogna dire che il JP8 quindi il carburante militare fa uso di un famigerato insetticida che è stato bandito dall'EPA in quanto cancerogeno, però viene usato ancora ed è appunto estremamente cancerogeno. Chiaramente se noi abbiamo degli aerei che soprattutto la notte dove la quota viene abbassata ancora di più volano a quote relativamente basse, quindi dai 2000 metri fino ai 1500 e a volte anche meno, queste sostanze ricadono al suolo, contaminano il terreno, il cibo, quindi gli ortaggi, la frutta, qualsiasi cosa della quale poi noi immancabilmente ci andiamo a nutrire, vanno a contaminare le falde acquifere, i laghi che servono come depositi per gli acquedotti. Quindi chiaramente finisce tutto nel ciclo alimentare, è roba e materiale che viene anche inalato, respirato, e diciamo captato anche attraverso i pori della pelle, e quindi chiaramente sì, sono aumentati i tumori, sono aumentate le leucemie, sono aumentati gli linfomi, sono aumentate i problemi respiratori, soprattutto delle alte vie aeree, e via discorrendo. Senti Rosario, si parla anche di trovare dopo questi rilasci di scie chimiche delle sostanze filamentose biancastre a volte sul terreno. Sono stati raccolti dei campioni di queste sostanze, di questi filamenti e qualcuno ha parlato di nanostrutture, ha parlato di polimeri che hanno il compito appunto di magari veicolare certe sostanze, ma qualcuno afferma anche che queste nanostrutture penetrano nell'organismo attraverso gli alimenti, attraverso l'aria, attraverso l'aria che respiriamo e rimangono lì praticamente per sempre perché non c'è maniera di smaltirle. Attorno a questo si sente parlare di una nuova malattia che si chiama morbo di Morgellons, dagli studi della dottoressa Hildegarde Steininger, una dottoressa californiana, appunto una tossicologa californiana che ha studiato questo fenomeno. Ci puoi parlare di questo aspetto? Allora, intanto facciamo riferimento a una certezza. Sulla rete si possono trovare decine e decine di brevetti che hanno a che vedere con le false contrails, cioè ci sono dei brevetti che spiegano come sia possibile diffondere in atmosfera tramite aerei delle sostanze che possono essere, coloro che realizzano questi brevetti le definiscono contrails anche se non lo sono, cioè per semplicità le definiscono tali, ma in realtà sono vere e proprie sostanze irrorate che poi danno l'aspetto di essere contrails, perché la differenza poi apparentemente non c'è. Sulla base di questi brevetti noi possiamo notare che certe sostanze possono essere disperse in diversi modi, principalmente in due, o attraverso additivi particolari nei carburanti, e quindi qui vediamo che gli aerei di linea lavorano in questo senso. Quindi vengono aggiunti degli additivi ai carburanti che gli aerei di linea spargono per conto dei militari, e questo fu un incarico, un'idea data già da Edward Teller all'inizio degli anni 90, e gli spiegava che solo i militari non avrebbero potuto compiere un lavoro talmente globale e capillare nel mondo. Quindi era necessario l'utilizzo anche degli aerei di linea. Per far ciò, chiaramente vengono utilizzati dei carburanti speciali. Tra questi abbiamo dei carburanti che contengono lo Stadis 450, che casualmente contiene parti di bario. L'altro sistema è chiaramente un sistema che permette di disperdere attraverso i roratori particolari, che chiaramente per non far preoccupare le persone che possono osservare, vengono posti nell'immediata vicinanza delle gondole motori, per cui non possono, a meno che non vai a vederli proprio da vicino, possono essere scambiati per normali scie di condensa. Tant'è che spesso noi vediamo degli aerei, specialmente quadrimotori, dove si nota meglio, che rilasciano quattro scie, delle quali due si dissipano in un modo determinato, le altre due si dissipano in un altro modo, quindi bisogna immaginare che ci sono quattro motori diversi, e addirittura si nota che almeno una o due di queste scie si vanno ad incrociare con quelle adiacenti. Quindi questo significa che non sono motori storti, ma che sono storti gli irroratori. Quindi abbiamo due metodi di irrorazione. Tu mi domandavi quali sono, come si può capire la differenza. La differenza si capisce andando ad osservare nei dettagli e comprendendo bene quali sono le caratteristiche reali di una scia di condensa. Bisogna anche precisare che non è vero, non è assolutamente vero che le scie chimiche si distinguono dalle scie di condensa perché le scie chimiche persistono mentre le scie di condensa non persistono. Non è vero perché i nostri amati avvelenatori si sono attrezzati e negli ultimi anni, specialmente nelle giornate di alta pressione, lavorano, specialmente di notte, con le scie persistenti che se non c'è la luna piena non si vedono, e di giorno lavorano con le scie semipersistenti o non persistenti, che disperse in un medium atmosferico già reso opaco dalle nebbie diffuse durante la notte, si distinguono pochissimo. Però anche in quel caso, pur essendo non persistenti, non sono scie di condensa, ma sono scie chimiche, sono irrorazione voluta. Quindi, insomma, di tutto e di più che ci piove dal cielo. Scusa se ti interrompo. Prego. Dimenticavo la domanda, tu mi facevi la domanda dei polimeri. Sì. Quindi mi aggancio a questo discorso dicendo che i polimeri servono da vettore per quei componenti che vengono irrorati e che non possono essere diffusi con il carburante attraverso additivi particolari. Questi polimeri cosa fanno? Inglobano le nanoparticelle dei vari composti e metalli che devono essere dispersi in atmosfera. Ora, dato che chiaramente qualsiasi nanoparticella, per quanto possa essere leggera, poi tende a ricadere al suolo, i nanopolimeri, che sono costruiti in maniera tale da formarsi come delle mega tele di ragno, che poi in realtà il ragno non c'entra niente, ma fino a un certo punto, e vi spiegherò perché. Sono tele che possono arrivare anche a 4, 5, 10 metri e vengono disperse dai venti. Questa caratteristica permette di disperdere queste stesse sostanze che vengono irrorate da un aereo in una determinata zona, disperderle in zone più ampie e soprattutto evitare che questi componenti che vengono spruzzati ricadano al suolo troppo velocemente. E quindi ecco perché spesso vengono impedite le precipitazioni in determinate ore della giornata o in determinati giorni per varie settimane, perché la pioggia chiaramente farebbe ricadere al suolo velocemente quanto viene disperso e invece deve rimanere sospeso in atmosfera dai 3 ai 7.000 metri e anche oltre, dipende dalle varie esigenze. Quindi questi polimeri sono derivati dalla manipolazione genetica della tela di un particolare tipo di ragno, che unita ad alcuni batteri, anch'essi manipolati geneticamente, ha potuto ottenere appunto la particolarità di questi polimeri che sembrano e si comportano come tele di ragno. I famosi ragni volanti dei quali parla il CICAP, cioè il CICAP, il Comitato Italiano per l'indagine sui fenomeni paranormali, si occupa di scie chimiche da diverso tempo e spiega che questi polimeri che vengono analizzati e che dimostrano contenere carbonio, sostanze, elementi che non hanno nulla a che vedere con l'organicità di una tela di ragno, il CICAP continua a dichiarare che queste sono tele di ragno migranti che migrano ad ottobre. Sono sostanze di sintesi in sostanza, non sono prodotte dai ragni. No, sono sostanze di sintesi, non sono il prodotto della vagare di migliaia di ragni volanti nei mesi per procreare, ma sono il prodotto di nanotecnologie militari. Tant'è che in Germania 2 anni fa sono stati analizzati questi polimeri nei quali hanno trovato anche fibra di vetro. Non penso che i ragni rilasciano delle tele che contengono fibra di vetro. Non vorrei avere in casa dei ragni del genere, sicuramente. Effettivamente. Ascolta, ma poi queste sostanze in qualche maniera vengono assorbite anche dall'organismo umano e dagli animali? Certamente, trattandosi di nanotecnologie, generano nanopatologie. Possono essere inalate tranquillamente, senza problemi, perché chiaramente i filtri a livello nasale che abbiamo noi non sono in grado di poter evitare l'inalazione di sostanze che sono addirittura sotto i 2 micron. Quindi è chiaro che quanto viene respirato. Faccio un esempio banale. Abbiamo fatto una statistica, abbiamo visto che le persone che muoiono più facilmente di infarto o di ictus sono gli sportivi. soprattutto quelli che vanno in bicicletta o che fanno footing la mattina o magari chi fa altri tipi di sport sempre all'aria aperta. Questo perché? Perché queste persone inalano un quantitativo di litri d'aria maggiore rispetto alle persone normali e quindi chiaramente hanno una intossicazione da nanoparticelle più veloce, immediata e in quantitativi maggiori nell'arco di minor tempo. Quindi queste persone inalando bario, che indebolisce i muscoli e quindi anche il cuore, essendo un muscolo, e inalando altri tipi di nanoparticelle che sono veicolate attraverso queste nanostrutture polimeriche, chiaramente hanno degli effetti negativi sul sistema linfatico, sul sistema respiratorio, sul sistema circolatorio e queste persone muoiono a 40-50 anni, mentre apparentemente erano persone sportive, di salute e in ottimo stato. Quindi io che mi guardo bene dall'alzarmi presto la mattina ad andare a fare footing o a correre in bicicletta, forse ho qualche probabilità in più di cavarmela. Beh, non tutti i mali vengono per nuocere allora. Comunque, a parte gli scherzi, mi fai venire in mente anche un curioso episodio che è accaduto in Italia tempo fa, non so se tu ne sia a conoscenza, provo a chiedertelo. Tu sai che tramite Beppe Grillo era stato finanziato l'acquisto di un famoso microscopio elettronico che doveva proprio servire per fare delle ricerche su nanoparticelle presenti in atmosfera dalla dottoressa Gatti e dal professor Montanari, mi sembra di ricordare i loro nomi, di questi due ricercatori autorevoli che poi hanno avuto questo microscopio attraverso delle donazioni raccolte e gli è stato in un modo così un po' rocambolesco sottratto e di fatto affossata tutta la ricerca su queste nanoparticelle, ecco. Ma non so se vuoi riallacciarti a questo, ma mi interesserebbe anche capire meglio cosa ci racconti di questa nuova malattia, di questo morbo di Morgellons che sembra ormai manifestarsi anche qui, ma che non sempre, anzi, che quasi mai viene riconosciuto dalla medicina ufficiale, insomma. Intanto bisogna ben chiarire. Ultimamente se ne è parlato, negli anni c'è stata sempre è stata sollevata la questione dell'uranio impoverito e delle persone, specialmente militari, reduci dalle guerre in Kosovo, in Iraq e in Afghanistan, che sono morti o si sono ammalati gravemente di linfomi e si è data la responsabilità all'uranio impoverito. In realtà la dottoressa Gatti e il dottor Montanari, attraverso anche lo studio con l'utilizzo di questo microscopio, di elevata capacità di scansione, avevano potuto accertare con estrema sicurezza che le patologie che si verificano nei reduci di guerra, ma anche nelle popolazioni circostanti l'area in Sardegna dove vengono esplose diversi tipi di ordigni, perché è una zona NATO che è addetta proprio all'esercitazione di vari eserciti della NATO e quindi attorno alla zona di Kirra in Sardegna, e come anche le malformazioni ai feti umani e anche animali e le morti di più di 20 allevatori in questi pochi anni non sono dovute alla presenza di uranio impoverito nelle cartucce esplose, nei proiettili esplosi, sia nei poligoni sia nei teatri di guerra, ma sono dovute alle nanoparticelle che vengono diffuse con l'esplosione. Nanoparticelle di metalli, vari tipi di metalli, tra questi logicamente anche l'uranio impoverito, che poi recentemente si è scoperto non si tratta di uranio 238, ma di uranio 236 e uranio 234, cioè due tipi di uranio che appartengono alle scorie radioattive delle centrali nucleari. Questo tanto per dire le scorie dove vanno a finire, no? Vanno a finire nei proiettili. E comunque, appunto, quando la Gatti e Montanari si sono avvicinati alla verità, chiaramente gli hanno subito sottratto il microscopio perché sennò potevano arrecare altri danni. Qui mi riaggancio al discorso delle scie chimiche, delle irrorazioni clandestine. Anche in questo caso si tratta di nanoparticelle, anche in questo caso abbiamo a che fare con nanopatologie come i linfomi, ma anche come il morbo di Morgellons, che vengono provocate semplicemente dall'inalazione di nanoparticolati di vario tipo. Tant'è che qui, per esempio, in Liguria, dove non ci sono poligoni militari, dove non ci sono industrie, specialmente qui nella provincia di Imperia, c'è un numero incredibile di malati di linfoma, soprattutto ragazzi e ragazze, studenti, ragazzi di giovane età, che vengono colpiti da linfomi, e se vai a fare delle domande chiaramente fuori microfono, i medici ti confessano che in realtà sono dovute alle nanoparticelle che vengono inalate. Non ti dicono da dove, ma probabilmente loro sanno. Queste, chiaramente, se noi andiamo a vedere, se questa non è una zona industrializzata, queste nanoparticelle di metalli da dove arrivano? Probabilmente, io dico, anzi con molta probabilità, al 99% provengono dalle irrorazioni a bassa quota di questi aerei, che soprattutto nella zona del Ponente Ligure vengono usate in grandissimo quantitativo, proprio perché qui sono in arrivo le perturbazioni della Francia, che spesso devono essere deviate o assorbite attraverso le irrorazioni chimiche. Senti Rosario, ma questo sì, tra l'altro lì la Versilia e la zona del Ponente del Levante Ligure è particolarmente soggetta proprio per i motivi che spiegavi tu a queste attenzioni, diciamo, da parte di questi aerei. Volevo chiederti, ritornando un po' indietro al Morgellons, ma come si manifesta questo morbo che è un po' sconosciuto, diciamo? Hai qualche informazioni in questo senso? Sì, intanto bisogna dire che negli Stati Uniti se ne è parlato molto più frequentemente, quindi se tu parli di morbo di Morgellons negli Stati Uniti, probabilmente molte più persone ne sono al corrente, perché lì molti network, non essendo legati a stretto giro di chiave con i finanziatori, sono più liberi e quindi possono parlare anche di cose che qui vengono definite argomento da complottisti e da visionari. Il morbo di Morgellons è una malattia esistente, tant'è che un paio di anni fa eravamo riusciti anche a pubblicare il referto ufficiale di un medico qui in Italia che aveva refertato appunto le condizioni di una paziente con la quale noi eravamo in contatto. È una malattia che si manifesta in quei particolari soggetti che evidentemente per una serie di concatenanti coincidenze conclamano quella che è la contaminazione ormai generale della popolazione, una contaminazione da nanoparticolato. Da qui le nanopatologie in generale, come anche la nanopatologia definita morbo di Morgellons. Come si manifesta questa patologia? Si manifesta con la fuoriuscita dalla pelle, in determinate zone della pelle, soprattutto dal tronco, dalle caviglie, dal volto, dalla testa, ma soprattutto nelle zone dove sono presenti i bulbi piliferi, di nanofilamenti che sono tra l'altro sensibili alla luce ultravioletta, quindi non si tratta di capelli, e quindi questi filamenti hanno chiaramente, una volta analizzati, si è potuto verificare, sono della stessa caratteristica microscopica, ma anche di come sono composti, sono identici a quelli che vengono ritrovati sul terreno o sulle piante dopo periodi, giornate di irrorazione massiccia. Sono identici. Quindi cosa succede? Che evidentemente tutti respiriamo questi filamenti, queste nanoparticolati di polimerici, e ci sono altri che li conclamano attraverso questa reazione, perché l'organismo evidentemente li rigetta in qualche maniera. Attraverso quelli che sono gli studi del dottor Michael Castle, ma anche di altri medici e anche della tossicologa Hildegard Steininger, alla quale facevi cenno tu prima, si è potuto verificare che la conclamazione del Morgellons attraverso la fuoriuscita di questi filamenti può essere dovuta anche ad un aumento del colinesterasi nel sangue. In determinate condizioni di acidità del sangue, questi nanofilamenti che si depositano in alcune parti dell'intestino e nei reni hanno la capacità di proliferare autonomamente, e quindi, secondo quanto è stato verificato, sono programmati per uscire. Questo perché si è potuto accertare che, con buona probabilità, questi nanofilamenti hanno la possibilità di comunicare in wireless. E qui mi posso riagganciare al discorso della Smart Dust o delle MEMS, Micro Electromechanical Sensors, che vengono diffusi in atmosfera per le previsioni meteo al posto delle radiosonde. Questi nanosensori hanno dimensioni nanometriche, hanno la capacità di trasmettere segnali attraverso i ponti wireless già esistenti e che vengono palesemente diffusi in modo gratuito perché probabilmente ci sono altri interessi in gioco. Quindi chiaramente è una catena, tutto quello che si inala o che si ingerisce con l'acqua o con il cibo è destinato ad uscire oppure a depositarsi nell'organismo fino a provocare patologie di vario tipo. Nel caso dei malati di morbo di Morbillans, questi polimeri hanno avuto la possibilità in qualche modo di uscire dall'intestino e dai reni e di proliferare fino al punto di arrivare al derma fino a uscire fuori perché sono attratti dalla luce ultravioletta. È un quadro che ci stai descrivendo che è veramente agghiacciante, è veramente agghiacciante. Ma Rosario, ma dietro tutto questo che cosa c'è? Qual è lo scopo di queste operazioni? È così che vogliono risolvere il problema dell'incremento del tasso demografico? Sono operazioni finalizzate alla natalizzazione alla depopolazione, scusate, del pianeta, o c'è qualcos'altro dietro a tutto questo? Ma i progetti, anzi i piani di irrorazione, come ci confessava un militare un annetto fa, un militare francese, sono almeno 400. Quindi si può ben comprendere che se i piani di irrorazione sono almeno 400, sono altrettanti gli interessi in gioco. Quindi noi possiamo notare diversi obiettivi e qui, per esempio, ce n'ho uno schema che mi ero scritto già in risposta ad altro giornale tempo fa. Gli scopi principali, quindi io ve li elenco così, poi magari su qualcuno si può anche approfondire. Sono i Certo, seguenti. certo. Modificazione meteorologica e climatica, accecamento dei radar nemici, creazione in atmosfera di un'antenna elettromagnetica oltre l'orizzonte, col fine di ottimizzare la ricetrasmissione dei segnali in ambito strategico militare. Danneggiamento delle colture agricole basate su piante non modificate geneticamente. Tenete conto che quando si trova nell'acqua piovana il carbonato di calcio rende acido il terreno e quindi lo rende sterile. Distruzione della coltre di ozono. Forse è un effetto collaterale dovuto a questa operazione, ma non è escluso che sia un fine scientemente perseguito. Mappatura elettronica del territorio connessa al progetto RFMP e al sottoprogetto WTRPE. Inquinamento degli ecosistemi per determinare un incremento esponenziale del costo delle risorse idriche ed agricole, vedi privatizzazione dell'acqua. Sfoltimento di alcuni settori della popolazione ritenuti improduttivi o di peso per il sistema. Qui vedo i pensionati, tra questi ci può essere mio padre che è morto di glioblastoma 4, che è accertatamente un tumore al cervello provocato dalle emissioni delle antenne di telefonia mobile. Diffusione di patologie croniche anche non gravi, e qui ci entrano gli interessi delle farmaceutiche, al fine di favorire un incremento dei profitti realizzati dalle industrie, come dicevo, farmaceutiche. Sperimentazione di agenti patogeni sulla popolazione inconsapevole, ci sono esperimenti di questo tipo che sono stati confessati dal presidente Clinton un paio di anni fa, dall'ex ministro della difesa britannico 4 anni fa. Sono stati condotti fin dagli anni 50 e dei quali si viene a sapere solo adesso, esperimenti chimici e biologici su cittadine inglesi, francesi, statunitensi e perché no, magari anche italiane, verrà fuori una confessione prima o poi, chissà. Diffusione diretta ed indiretta di agenti patogeni e quindi di malattie. Tra questi vediamo lo Pseudomonas, che è un componente, è un batterio che è stato modificato geneticamente, loro dicono che è stato reso innocuo, al fine di produrre le piogge, cioè hanno visto che anziché dover usare lo ioduro d'argento possono usare lo Pseudomonas, per poter creare i nuclei di condensazione e creare le piogge. Questo Pseudomonas poi lo troviamo nelle mozzarelle blu, lo troviamo sui kiwi, lo troviamo dappertutto. Queste infestazioni alla Pseudomonas da dove arrivano? Dalle precipitazioni. E perché dalle precipitazioni? Perché lo Pseudomonas viene usato per produrre le piogge. E come si producono le piogge? Con le scie chimiche. Modificazione del DNA umano in modo da impedire un'evoluzione genetica. Questa è una delle tante teorie che vengono tirate fuori da diversi scienziati, sia negli Stati Uniti che in Germania e in Gran Bretagna. Non si può pensare che sia una cosa completamente campata in aria, visto che il DNA funziona come un'antenna ricevente. Il DNA è qualcosa che hanno dimostrato recenti studi, è qualcosa che va al di là di quello che viene così sempre dichiarato sui libri di scienze. Poi controllo del pensiero e del comportamento. Qui torniamo al discorso del progetto MK Ultra degli anni 50 e 60, che poi è andato oltre, è andato avanti attraverso la realizzazione dei ponti ARP e dell'emissione di onde elettromagnetiche a bassa frequenza. Teniamo conto che, per esempio, la frequenza di 4 Hz, per esempio, è caratteristica della fase REM del sogno, e siccome l'organismo umano attraverso il DNA è in grado di recepire le onde elettromagnetiche come se fosse un'antenna radio e nel contempo di sintonizzarsi su queste frequenze, attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche a frequenze spaiate, cioè fuori frequenza rispetto a quella che è per esempio la frequenza della fase REM, si può impedire il sogno oppure si può innestare nei sogni dei comportamenti diversi e da qui possiamo avere dei candidati manciuriani. Non è un episodio raro, quello di sentire parlare di una persona che è sempre stata considerata una persona innocua e normale, che di punto in bianco, senza motivo, stermina la famiglia o magari comincia a sparare per strada e poi immancabilmente si suicida. Diffusione di nanomacchine. Cosa sono le nanomacchine? Ne ho parlato prima, smart dust, MEMS. Nanostrutture in grado, e qui non è fantascienza perché basta fare una ricerca in giro, ci sono studi sulle nanostrutture e sulle nanomacchine intelligenti e sui sensori per previsioni meteo che vanno avanti da almeno 10 anni, se ne osserva anche il costo per pezzo e se ne studiano diciamo, i vantaggi rispetto a, per esempio, al mandare in quota i palloni sonda per le previsioni meteo, tant'è che in Italia ormai le previsioni meteo spesso vengono fatte con le MEMS, tant'è che quando ci sono le attività di aerosol su questa zona, i palloni sonda per quelle giornate non vengono mandati in atmosfera, evidentemente perché usano queste nanostrutture. E poi creazione di un ambiente atto alla proiezione di immagini olografiche, questa altrettanto può sembrare una fantasia, ma in realtà non lo è perché attraverso uno strato atmosferico reso come un plasma, attraverso appunto la sua elettrificazione, è possibile non solo far viaggiare il laser, e di qui i militari, se ne era parlato anche sulla blasonata trasmissione Super Quark, hanno studiato un modo per trasferire i segnali radio non più attraverso le onde elettromagnetiche classiche, ma attraverso un fascio laser, e quindi comunicare attraverso il laser. Come si può fare? Si può fare solo se l'atmosfera è resa elettrificata, cioè se è resa come un plasma. E da qui poi è possibile anche, in qualsiasi modo, creare delle immagini olografiche. Questi sono i vari progetti. In generale noi vediamo che qui, per esempio, in Italia, se vogliamo andare più nel pratico, non siamo molto favorevoli agli OGM e quindi stanno facendo di tutto per rendere sterili i terreni in modo tale poi da obbligarci ad acquistare le sementi OGM che, preciso, sono sementi sterili, cioè ogni anno bisogna ricomprare la semente perché queste sementi non ti permettono di seminare l'anno successivo con il prodotto che ha rilasciato dei semi, in quanto sono sterili. Andiamo ad avere una conferma su questo obiettivo, perché quest'anno la Monsanto ha brevettato una semente che resiste all'alluminio. Ma guarda un po' che coincidenza. Che caso strano e singolare. Quindi un insieme ben eterogeneo di interessi che sostanzialmente si conciliano, trovano un comune denominatore e mettono d'accordo una serie di industrie, di soggetti, di personaggi che da un lato traggono da tutte queste operazioni del profitto e magari dall'altro esercitano chissà quali azioni sulla popolazione e in virtù di chissà quali agende e di chi. Bene, anzi, male. Volevo chiederti anche un'altra cosa, ma i cieli di un paese come l'Italia, ma anche come il resto dell'Unione Europea, come sappiamo, sono trafficati ogni giorno da centinaia, migliaia di aerei che seguono delle rotte, e tutto avviene in maniera non casuale, ma rigorosamente controllata. Da appositi organismi, da sistemi radar civili, lasciando stare poi tutto l'aspetto militare, e quindi ci sono i controllori di volo, c'è l'ENAV, ci sono questi enti che controllano ogni giorno che nello spazio aereo non ci siano diciamo, velivoli non autorizzati e che tutto si svolga nel rispetto della sicurezza. Ma queste operazioni, questi aerei che solcano il cielo, non dovrebbero essere visti, individuati dagli uomini radar e in qualche maniera segnalati? Parliamo di migliaia di persone che lavorano dietro a tutto questo. Ci sono i piloti civili, che sono persone che hanno magari i bambini, la moglie e i loro cari, proprio dove passano magari aeronavi prive di contrassegni, prive di livree e rilasciano questo arsenale di sostanze chimiche di cui ci hai parlato abbondantemente prima. Ecco, voglio dire, come fa a rimanere così segreta, così nascosta tutta questa cosa? Ma intanto bisogna precisare che l'Italia ha firmato qualche anno fa un trattato che viene definito cieli liberi, cioè con questo trattato in pratica si permette a qualsiasi aereo che provenga da paese estero di viaggiare sul nostro territorio senza dover dare particolari spiegazioni, senza dover dichiarare un piano di volo particolareggiato. Quindi questo già è un punto debole da un punto di vista della sicurezza aerea e chiaramente un punto debole anche dal punto di vista della disinformazione, la quale afferma che tutti i voli vengono comunque controllati e dichiarati, ciò non è affatto vero. Tra l'altro, a conferma di questo c'è una diatriba sindacale che si è verificata tra il 2007 e il 2008 tra il sindacato dei controllori di volo ENAC, l'ENAV e il governo. Questi sindacalisti, attraverso il loro rappresentante, avevano lanciato diverse istanze per segnalare la presenza di un notevole numero di velivoli non identificabili e che non rispondevano alle richieste di identificazione, definiti appunto traffico sconosciuto. Vi leggo una parte che ho trovato al volo mentre tu mi facevi la domanda. Giovedì 10 gennaio 2008, in relazione al traffico sconosciuto e delle responsabilità del controllore di volo, ultimamente ho appreso molti particolari sul problema del traffico sconosciuto, dice questo sindacalista, è evidente a tutti coloro che operano in frequenza l'impossibilità in determinati momenti di conciliare la gestione del traffico aereo sotto controllo radar con lo sconsiderato numero di macchine volanti sconosciute al controllo del traffico aereo che affolla i nostri cieli. La vertenza ha avuto una lunghezza infinita, laddove gli accenti e l'agitazione da parte di questo personale del controllo al traffico e dei sindacalisti che lo rappresentavano sono diventati sempre più alti, fino a quando il ministro dell'epoca, stanco e chiaramente preoccupato di questa situazione che andava forse a pestare i piedi ai militari o a qualcun altro ancora più in alto, precettò i lavoratori controllori di volo, i quali vennero messi a tacere e non poterono più lamentarsi di questa che loro obiettivamente e oggettivamente definivano un pericolo per la sicurezza del volo, in quanto questi velivoli non identificati mettevano a rischio gli aerei di linea e comunque civili al decollo e all'atterraggio e anche in altre fasi di volo. Bene, bene, Rosario. A questo proposito, io so che tu sei andato a fondo e hai cercato anche di alzare la voce verso le autorità preposte, di farti sentire per avere delle spiegazioni e anche tu ti sei domandato come mai chi controlla, ad esempio, il traffico aereo sembra non vedere quello che accade ogni giorno nel cielo. A questo proposito, se sei d'accordo, chiederei alla regia di mettere in onda la registrazione di una telefonata che tu hai fatto qualche tempo fa all'ENAV, all'ufficio relazioni esterne, all'ufficio stampa, credo, dell'ENAV, che è appunto una delle autorità preposte al controllo del traffico aereo. Così sentiamo come hanno risposto alle tue domande. Ok. Buongiorno, è l'ufficio stampa? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io mi chiamo Marciano e telefono a Sanremo. Sì. Volevo farle così una domanda a bruciapelo, le spiego, la sera, ma anche ieri sera, nei servizi meteo, nel caso specifico su Rai 3, il tenente colonnello Guido Guidi, prevedono delle innocue velature in progressivo aumento e nel caso specifico qui nel nord Italia. Ora io mi chiedo, visto che queste velature si sono poi puntualmente verificate, ma sono provocate dal passaggio di aerei a bassa quota, volevo sapere intanto come fa il tenente colonnello Guido Guidi a sapere che passano gli aerei proprio stamattina, mentre magari in altre ore degli stessi giorni non passano, oppure magari alla stessa ora nei giorni successivi, e poi se questi aerei a voi risultano. Ma, guardi, allora, lei ha fatto un sunto abbastanza, insomma, credibile per come l'ha esposto. Dunque, per quanto riguarda il tipo di comunicazione che Guido Guidi ha relativamente a questi aerei così praticamente a bassa quota, ovviamente non so dirle perché l'ufficio stampa non si relaziona in questi termini con il meteo, no, peraltro abbiamo un servizio anche nostro di meteo, per cui questo tipo di cose non è riscontrabile da parte nostra. E punto primo. Punto secondo, sulla questione degli aerei a bassa quota, questi se hanno, diciamo, permessi o meno, non lo so, bisogna avere delle indicazioni più chiare, nel senso quando, a che ora, e comunque qualcosa di legato all'area operativa e non certo all'ufficio stampa. Sì, certo, io già tempo fa telefonai anche all'area operativa, non mi seppero rispondere, anzi la risposta fu molto evasiva. Certo, c'è da dire che questi aerei qua non vengono identificati dai radar di cui diversi utenti ormai dispongono, radar passivi, e non sono, io noto anche che quando ci sono queste attività che vengono appunto definite velature dai meteorologi, innocue velature, loro ci tengono a dire che sono innocue, ma su questo non ho molta certezza, questi aerei non, in pratica si crea una sorta di buco nella zona di operatività, per cui io vedo che gli aerei di linea, quelli commerciali standard, che normalmente passano nell'area circostante, non vengono più dirottati su questa zona, ma evidentemente su altre. In pratica si crea un buco nella zona radar sulla mappa proprio quando ci sono queste velature. E ripeto, ne abbiamo fotografati anche diversi, sono aerei senza identificazione. E secondo le normative è chiaro che il posizionamento delle macchie dovrebbe essere ben visibile, invece questi non hanno identificativi. Quindi, guardi, sto, se mi permette, imparando varie cose da questa telefonata, cioè quell'attività alla quale lei fa riferimento è lontana anni luce da noi, per cui insomma l'ENAV dovrebbe, di aiutarla in questo. Così se la interrompo, ma l'ENAV dice anche negli spot televisivi, per esempio su Voyager, che tiene sotto controllo tutto il traffico aereo civile, e io allora mi chiedo, questi aerei se sfuggono al controllo dell'ENAV, l'ENAV che cosa fa? Cioè, qual è il controllo totale sul quale... Lei forse nella domanda può trovare la risposta, può darsi grossi tratti di aviazione civile. Ecco, sarà probabilmente aviazione militare, anche perché appunto mi chiedo, tornando alla domanda principale, come fanno nei servizi meteo a prevedere il passaggio di aerei la sera prima, per la mattina dopo? Su, guardi, ci siamo confrontati, non posso darle risposte perché non le ho, per cui... Quindi non è un problema dell'ENAV in pratica, dovrebbe essere un problema dei militari... Io non ho detto, ho detto che non so darle una risposta a questo tipo di domanda, okay. Perché comunque sfugge sensibilmente dalla nostra competenza, dalla vostra competenza come relazione esterna. Ho capito, quindi dovrei porre la stessa domanda al colonnello, a tenente colonnello Guido Guidi. Questo fa parte, diciamo, del immagino che faccia parte un po' del suo lavoro, del percorso che lui adotta per poi fare queste previsioni, per cui... Anche perché queste definizioni ai tempi del mitico Bernacca non venivano date, cioè le innocue velature sono un'invenzione degli ultimi due anni da parte dei meteorologi italiani. Ma se il cambiamento non sempre evoluzione, ora io... Che io sappia, la meteorologia è una scienza quasi esatta, che dovrebbe avere una storia e dovrebbe avere una sua continuità, invece evidentemente questa continuità non c'è, ma è variata in base all'intervento di questi aerei che creano appunto le innocue velature. Io credo che chiamando la RAI 3 forse riuscirà ad ottenere qualche dialogo più interessante. Sì, che non... Sicuramente, anche perché la RAI paga i militari per queste previsioni meteo, quindi mi sarà interessante sapere anche cosa ne pensa la RAI. Benissimo. La ringrazio, ringrazio molto, buongiorno. Implicitamente ha fatto capire che sicuramente si tratta di operazioni militari, insomma non ha negato l'esistenza del fenomeno. E poi vediamo come anche i mezzi di informazione sembrano essere coinvolti nella cosa, vero Rosario, con addirittura una terminologia, un lessico nelle previsioni del tempo che non si era mai sentito in tanti anni di televisione e di radio, insomma adesso compaiono le velature, le innocue velature come si dice. Ma infatti poi anzi addirittura su Rai News 24 sono ancora più espliciti nella descrizione di quelli che sono i risultati delle irrorazioni. Bisogna tener conto che ormai possiamo osservare una riscrittura orwelliana della storia e una rieducazione subliminale che avviene attraverso gli spot pubblicitari, almeno il 70% degli spot pubblicitari vengono costruiti appositamente con degli sfondi chimici, lo stesso dicasi per i cartoni animati, per i videogiochi, per i film, che addirittura quelli che vengono ripassati sul digitale terrestre che sono stati rimasterizzati, a questi sono stati aggiunti dei cieli chimici. Faccio per esempio il nome del film con Clint Eastwood, Pink Cadillac, che io avevo visto tempo fa e che avevo voluto guardare fino alla fine, per quanto non fosse un film che mi piacesse granché, ma solo perché era un film che mostrava spesso dei panorami di cielo, e avevo notato che effettivamente questo film mostrava dei cieli puliti. Eppure adesso sulla TV digitale questo film è stato riproposto con i cieli chimici, quindi si sono dati la briga di ridigitalizzare i film e a volte anche i documentari, vedi Memphis Belle, che è un film del 45 mi pare, che faceva vedere i bombardieri della Seconda Guerra Mondiale, e vanno a rimettere le scie chimiche dove prima non c'erano, per dar l'idea alla popolazione, che a mano si sta abituando, che queste scie nei cieli ci sono sempre state. Quindi non solo la normalizzazione di quello che non è assolutamente normale, ma è agghiacciante, ma è anche un inganno globale che avviene attraverso la collaborazione di tutti. Per quello dico che siccome gli interessi sono molteplici, il cover up e la riprogrammazione avviene attraverso la collaborazione di tutti gli enti e di tutte le aziende che vengono finanziate in nero per poter presentare magari spot pubblicitari con messaggi subliminali di scie chimiche nei paesaggi, magari in frazioni di secondo, che così vengono recepiti anche meglio. È drammatico vedere anche una cosa del genere sui libri delle scuole elementari e medie. Quando prima non si parlava di questo fenomeno, adesso vengono descritti, come anche su Wikipedia, dei fenomeni chimici come dei cirri, con dei nomi in latino che non esistono, tipo Cirrus spissatus, che è un'invenzione di un paio di anni fa di un meteorologo italiano collegato a Nimbus, gestito e diretto da Mercalli, Questi cirri non esistono, in realtà sono delle stratificazioni a bassa quota a livello cumuli create dalle scie chimiche, ma in realtà vengono definiti cirri spissati. Quindi un rivoluzionamento, un remake up, diciamo, anche della nomenclatura meteorologica, e abbiamo stravolto veramente tutto pur di giustificare queste cose. Se sei d'accordo, Rosario, ti farei parlare un po', perché è un argomento che desta grandi curiosità, eccetera, di ARP, di questo misterioso progetto e di queste sperimentazioni che sembrano nascondere dietro una serie di inquietanti, obiettivi e una serie di inquietanti applicazioni. E con l'occasione, visto che si parla di onde elettromagnetiche, visto che si parla di radiotrasmissioni, ti chiederei anche se è vero, come è stato osservato, che sembra che in alcune zone, specialmente quelle più densamente popolate, vengano installati un gran quantitativo, un sempre maggior numero di impianti, di antenne, che ufficialmente servirebbero per la telefonia mobile, per i cellulari, insomma, per capirci, e in queste zone sembra ci sia una maggior irrorazione, ci sia una maggior attenzione proprio da parte di questi aerei nel rilasciare particolato, nel rilasciare sostanze. Dunque, descrivere ARP è abbastanza semplice, però chiaramente se si vuole andare nel tecnico riusciamo a perderci. Diciamo che in generale le stazioni ARP, come dicevo io, dicevo prima, sono almeno 5 nel mondo. La principale si trova a Gakona, in Alaska, è composta da un certo numero di piloni alti una ventina di metri, vado a memoria adesso. Che sono disposti in modo tale da funzionare in serie o in parallelo a seconda delle necessità, e immettono in atmosfera, precisamente nella ionosfera, delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza spaiate di qualche secondo, in modo tale da generare un riverbero di bassa frequenza verso la crosta terrestre. Queste emissioni, che sfruttano appunto la ionosfera, funzionano secondo il principio attraverso cui, siccome la ionosfera è una parte dell'atmosfera con una caratteristica estremamente particolare, cioè essendo particolarmente elettroconduttiva, permette la trasmissione dei segnali radio. Tant'è che i radioamatori già negli anni 40 e 50 capivano che per poter superare le distanze e soprattutto gli ostacoli, era possibile sfruttare appunto una polarizzazione orizzontale che andasse ad usare proprio la ionosfera come specchio. In pratica, la ionosfera, attraverso le sue particolari caratteristiche, permette poter trasferire i segnali oltre la linea dell'orizzonte, proprio perché funziona come uno specchio. Cosa significa ARP? ARP è l'acronimo di High Frequency Active Auroral Research Project. In pratica viene spacciata come un progetto per lo studio delle caratteristiche elettriche della ionosfera. In realtà la ionosfera viene sfruttata proprio per questi motivi strategici e militari. ARP, infatti, può essere utilizzata come sistema di comunicazioni radio anche quando tutte le altre comunicazioni radio vengono distrutte. Che ne so, supponiamo per esempio che a un certo punto una flare solare improvvisa distrugga tutti i sistemi di comunicazione nel mondo, i GPS, i satelliti, non funzionerebbe più niente, tranne le comunicazioni ARP. Cioè, ARP permetterebbe ai sommergibili, agli aerei, agli AWACS, a tutti gli aerei caccia, a qualsiasi stazione sotterranea, permetterebbe di mantenere le comunicazioni in atto senza nessun problema, quand'anche tutte le altre comunicazioni nel mondo fossero andate down. Quindi ARP sicuramente è un obiettivo, è uno strumento militare che è basato dagli studi di Nikola Tesla, che aveva malauguratamente consegnato i suoi progetti sia ai russi che agli americani. Tant'è vero che anche i russi dispongono di una stazione ARP. Già per esempio negli anni 70 era famoso l'episodio del picchio, in pratica era un picchiettio che veniva percepito attraverso le stazioni di ricezione negli Stati Uniti ed erano dei segnali radio a bassissima frequenza che i russi avevano cominciato a sperimentare presso l'ambasciata americana a Mosca per studiare gli effetti sugli esseri umani, nella fattispecie sui dipendenti dell'ambasciata, i quali morirono quasi tutti di cancro. Quindi evidentemente ARP funziona e le basse frequenze anche per indurre i tumori. Detto questo, ARP funziona per questo motivo e anche per altri, ma serve anche per la manipolazione meteorologica, tant'è che quando noi sottoponiamo la ionosfera ad un riscaldamento, infatti le stazioni ARP vengono dette anche riscaldatori ionosferici, la ionosfera tende a bombarsi, cioè tende a deformarsi e nel contempo, assumendo questa nuova forma, permette, anzi provoca, lo spostamento delle correnti a getto. Se noi contemporaneamente usiamo diversi riscaldatori ionosferici e deformiamo varie parti della ionosfera, provochiamo uno spostamento a sud o a nord delle correnti a getto, che sono quelle che presiedono al clima nel mondo, al clima globale, e possiamo indurre, che ne so, caldo eccessivo a Mosca, vedi gli incendi di qualche mese fa, freddo eccessivo in zone dove normalmente invece c'era il caldo, vedi la neve e il ghiaccio in Florida. Quindi questi fenomeni non sono ipotetici, ma sono reali e si sono già verificati. Nel contempo, ARP permette anche di provocare dei sismi, oppure li provoca, vogliamo essere teneri e magnanimi, li provoca involontariamente. Come? Se queste emissioni ARP, come noi abbiamo potuto vedere anche dal magnetometro che misura le emissioni ARP sul sito appunto dell'Università dell'Alaska, se queste emissioni vengono inviate nella ionosfera e poi con estrema repentinità vengono interrotte, la ionosfera nella zona in cui era stata riscaldata tende ad avere un effetto rimbalzo, cioè ritorna alle sue originarie forme. In questo modo crea uno spostamento verso tutti gli strati inferiori dell'atmosfera, che a livello di bassa frequenza si ripercuote fino sulle faglie. Da lì, come spesso accade, si verificano dei terremoti di elevatissima intensità, soprattutto a livello delle faglie, che sono quelle più soggette alle vibrazioni provocate dal rinculo della ionosfera quando le emissioni delle stazioni ARP vengono improvvisamente interrotte. Noi abbiamo visto, per esempio, e l'avevamo già previsto che ci sarebbe stato un terremoto, non sapevamo dove, ma sapevamo che ci sarebbe stato, guarda caso, l'11 di marzo 2011, in Giappone si è verificato un terremoto dopo che la stazione ARP aveva emesso per qualche giorno degli impulsi estremamente violenti e forti verso la ionosfera e che poi immediatamente erano andati a scemare nelle immediatezze della data in cui si è verificato poi il terremoto. Quindi le verifiche si possono fare, basta andare in giro a osservare, a studiare e si possono unire tutti i pezzi del mosaico e alla fine si vede che ARP è uno strumento di guerra climatica, è uno strumento per il controllo delle menti, perché attraverso le basse frequenze si possono anche modificare i comportamenti umani. Tant'è che voglio aprire una parentesi, poi mi fermo, il cervello umano ha la caratteristica che a seconda di recepire segnali di frequenze che vanno dai 3 ai 12-14 Hz, ha la caratteristica di cambiare comportamento, cioè una persona che viene sottoposta a un variare di queste frequenze comprese tra i 3 e i 14 Hz può diventare depressa, può diventare violenta, può diventare insonne, può diventare, che ne so, apatica. Queste sono le caratteristiche che possono essere indotte a un carattere, a un comportamento di un determinato individuo o di milioni di individui, variando semplicemente le frequenze che, per esempio, possono essere emesse, secondo le verifiche che ha fatto anche il ricercatore Clifford Carnicom, durante le ore notturne. Quindi uno strumento multifunzione capace di agire su più fronti, dal controllo climatico al controllo mentale ai terremoti. È un'arma veramente potente, tant'è che l'Unione Europea, mi sembra, ha fatto diverse interpellanze e molti paesi non sono molto d'accordo, insomma, a questo genere di esperimenti e li hanno in qualche occasione anche contestati agli Stati Uniti. Come sono state fatte varie interpellanze parlamentari in maniera trasversale sui vari schieramenti politici anche in Italia per quanto riguarda questa faccenda di cui appunto abbiamo parlato stasera, di aerei non autorizzati e non identificati che rilasciano particolato in atmosfera. Ecco, volevo chiederti anche se ci potevi parlare di questa cosa delle antenne per la telefonia cellulare di cui ti chiedevo prima, cioè ti risulta è vero o sono magari le solite leggende metropolitane che circolano sulla rete? Ma io in prima persona ho potuto verificare, non solo qui ma anche in altre zone, che laddove vengono installate delle antenne che vengono dichiarate di telefonia mobile, di lì a pochi giorni o settimane, in zone dove magari prima non erano presenti i passaggi di questi aerei a bassa quota, ecco che a un certo punto questi aerei compaiono e con essi anche le coperture chimiche. Quindi, visto che si tratta di un metodo che funziona benissimo per la propagazione dei segnali, non si può escludere che queste irrorazioni chimiche possano essere usate anche per far funzionare meglio i segnali delle compagnie, delle aziende telefoniche. Non vedo come questa cosa possa essere così remota e impossibile, visto che ARP funziona con lo stesso principio e visto che le scie chimiche servono a creare delle reti, dei canali elettroconduttivi artificiali a bassa quota. Cerchiamo di essere precisi. Io prima ho parlato di ionosfera. La ionosfera è lo strato più alto dell'atmosfera. Noi, attraverso le irrorazioni chimiche, possono creare degli strati artificiali tipo sandwich di ionosfera. Cioè, loro ricreano le caratteristiche della ionosfera, però alla quota che vogliono loro. Quindi se io, per esempio, voglio far trasferire meglio dei segnali di comunicazioni telefoniche o altro, per quanto riguarda le propagazioni su determinati territori popolati, posso farlo irrorando a bassa quota. In questo modo, con questi canali elettroconduttivi creati dalle scie chimiche, posso superare le colline e le montagne senza la necessità di realizzare nuovi ponti su altre colline e altre montagne. Certo, quindi risparmio sui costi di attrezzature, di installazione dei ripetitori e degli impianti, indipendentemente da quello che succede poi alla popolazione che è esposta a queste sostanze. E a questo proposito ti volevo chiedere, ma noi come possiamo difenderci? Cosa possiamo fare per difenderci da tutto questo? Tu prima dicevi giustamente dobbiamo prenderne coscienza e dobbiamo in qualche maniera reagire conoscendo il problema. Anche il nostro sistema immunitario, anche il nostro organismo probabilmente per tutta una serie di suoi meccanismi interni si predispone anche a resistere di più a queste situazioni. So che c'è stata, sempre a proposito di resistere e di in qualche maniera reagire, so che c'è stata per la prima volta in Italia una manifestazione a Roma a novembre del 2010, in un giorno piovoso appunto di novembre, ci sono stati un centinaio di persone che hanno avuto la temerarietà di andare lo stesso in piazza nonostante la giornata, e non ci sarebbe da meravigliarsi se a qualcuno venisse il dubbio che questa giornata fosse piovosa per caso. Comunque, al di là di tutto, sono andate a manifestare apertamente questo problema con tanto di striscioni in maniera eroica, e tu so che ti sei palesato in questa piazza, collegato a distanza, e hai parlato tramite il telefono al megafono cercando di portare in qualche maniera la voce della tua protesta. Quindi si è iniziato anche un po' a scendere in piazza per questa cosa, ma al di là di questo, che poi sappiamo insomma le manifestazioni come vanno a finire, quali altri rimedi possiamo adottare? In quale altra maniera ci possiamo in qualche modo difendere? Questa domanda me la rivolgono sempre tutti ed è in effetti la domanda alla quale è più difficile rispondere rispetto a tutte le altre che sono prettamente tecniche, perché qui ci troviamo di fronte innanzitutto a un muro di gomma eretto dalle istituzioni, tutte, ARPAT, ASL, sindaci, assessori, NOE, quindi carabinieri, magistratura, giornali, giornalisti, scrittori, tutti, cioè non c'è nessuno che sia disposto soprattutto ad ascoltarti, ma quando pure ti ascoltano ti rispondono facendo copia e incolla dal sito di Attivissimo dicendo che sono solo cie di condensazione. Quindi siamo di fronte a un muro di gomma. Di fronte a un muro di gomma che cosa si può fare se non, scusate il termine, rompere le scatole? Si può fare solo questo. Cioè noi cosa abbiamo in mano in questa consunta democrazia che oramai di democrazia ha ben poco? Possiamo solamente cercare di fare i cittadini che fingono di essere in una democrazia, e cioè fin tanto che ci viene ancora permesso, nonostante le leggi in cantiere siano ancora più restrittive da questo punto di vista, dobbiamo usare la rete in tutti i modi per poter diffondere le informazioni, così come stiamo facendo adesso, come lo state facendo voi, come l'abbiamo fatto noi negli anni passati e lo facciamo tuttora, come lo fanno anche altri. Io voglio per esempio menzionare il nostro amico carissimo, nonché fisico e quindi con una cultura senza dubbio migliore e maggiore della mia, Corrado Penna, che si sta occupando di questo argomento in maniera veramente ammirevole e invidiabile anche da parte nostra, perché veramente ha una volontà di ferro e riesce a sfornare sempre nuovi articoli e a continuare la sua ricerca e ad operare attraverso la pubblicazione di altri articoli e video per informare la gente che vuole essere informata. Il nostro grosso problema qual è? Che noi non abbiamo i media dalla nostra parte. Torno al discorso della manifestazione che si è verificata qualche mese fa, mi pare a fine di novembre, infatti io quel giorno ero su in Piemonte in auto che stavo disperatamente cercando un prodotto medico per mio padre, che poi purtroppo non è servito. Ma quella manifestazione intanto è stata boicottata, perché è stato dato il permesso in una piazza dove addirittura non c'erano abitazioni abitate, dove era chiusa al traffico, dove non c'era nessun cane. Quindi alla fine si sono fatti la manifestazione tra loro, si sono visti, salutati, abbracciati e arrivederci a grazie. Chiaramente i media non ne parleranno mai. I media quando è che parlano di un fenomeno del genere? Quando un fenomeno del genere comincia ad essere pericoloso e logicamente i servizi cominciano a infiltrare dei provocatori che spaccano le vetrine. Allora in quel caso lì, quello che da Paolo Attivissimo e da tutti gli altri del CICAP collegati chiamano in maniera dispregiativa lo sciachimista, verrà un giorno magari messo in mezzo a una questione di cronaca nera, perché magari lo sciachimista sta cominciando a dare fastidio. Nel momento in cui noi al momento non stiamo dando fastidio se non sulla rete, tutto quello che viene fatto fino ad ora viene ignorato, tranne che ovviamente dai 50-60 blog e canali video che mirano a diffamare coloro che si occupano di questa attività, tant'è che negli anni, da che eravamo 10-15 ricercatori e informatori sulla rete, siamo diventati quattro gatti, perché alcuni sono passati dall'altra parte, altri si sono dissolti come neve al sole, altri si sono ritirati dicendo non ce la faccio più perché mi hanno minacciato, sono venuti a scrivermi delle cose, ho visto che mi hanno seguito e che quindi devo farmi da parte prima che cominciano a mettere nei guai anche la mia famiglia. Quindi chiaramente è una situazione che non è facile da gestire. Quindi quando mi viene chiesto cosa possiamo fare noi, possiamo solo cercare nel limite del possibile di rompere le scatole, fin tanto che ci permettono di fare almeno questo, visto che dovremmo essere in una democrazia. Io sono convinto che non lo siamo. Detto questo, da un punto di vista invece, come accennavi tu, del proteggersi, chiaramente sapendo che si tratta di nanoparticolati, sapendo che si tratta di un inquinamento da particolati di metalli pesanti che in primis danneggiano il sistema cerebrale, quindi danneggiano i neuroni e che possono provocare tumori per accumulo e via dicendo, chiaramente l'unica cosa che si può fare è cercare di attuare delle terapie che servano a diminuire la quantità di metalli accumulati nel sangue. E tant'è, oltre di questo non possiamo fare, possiamo cercare di adottare caraffe con i filtri a carboni attivi per depurare l'acqua, possiamo mettere i filtri a osmosi inversa sotto ai rubinetti, dobbiamo cercare di non usare l'acqua naturale in bottiglia, specialmente di certe marche, perché è già intrisa di bario e alluminio e altri metalli, compreso il litio, che si dovrebbe trovare solo nelle batterie di ultima generazione, invece viene diffuso in atmosfera e quindi si trova anche nell'acqua potabile. Bisogna lavare bene la verdura col bicarbonato di sodio, bisogna usare il bicarbonato di sodio per rendere più basico il sangue. Tutte queste cose servono chiaramente a tutelarci da un punto di vista della salute in minima parte. Poi per il resto dobbiamo solo affidarci alla nostra buona sorte di non fare la fine che ha fatto mio padre, per esempio. Certo, certo. Ti voglio fare un altro paio di domande per chiudere proprio così la carrellata degli argomenti connessi a questa tematica che ci hai così ben esposto, e sono sicuro che si potrebbe continuare per ore. Purtroppo il nostro spazio è quello di cercare di stare nelle 2 ore, ma comunque cercheremo magari di recuperare i minuti persi prima a causa di qualche piccolo problema tecnico. Ti volevo chiedere, recentemente ho letto, credo sul vostro blog, sempre parlando appunto della sensibilità delle istituzioni verso questo argomento, verso questo fenomeno, quindi sensibilità tra virgolette, che qualcuno, un cittadino, ha fatto una denuncia ben documentata con foto, con materiali e adeguati riscontri, e l'ha inoltrata alla Presidenza della Repubblica, pensando appunto che la Presidenza della Repubblica sia ormai l'unico istituto. Sì, l'unica istituzione sana esistente in questa nostra Repubblica un po', diciamo, intossicata da scandali e da malaffare. E sembra abbia, contrariamente alle aspettative, ricevuto una risposta proprio sulla carta intestata della Presidenza della Repubblica. Ce ne vuoi parlare velocemente, perché siamo ormai quasi in chiusura e poi avevo anche un'altra cosa da chiederti. Ma intanto questa risposta è involontariamente un'ammissione, non credo che sia stata voluta. Precisiamo che il nostro Presidente della Repubblica è il capo delle Forze Armate, però stranamente in questa risposta che è stata data dal suo assistente militare per l'aeronautica, in questa risposta il Presidente dice che comunque non è sua responsabilità. E qui torniamo al solito scaricabarile delle varie istituzioni. Testualmente il messaggio diceva: gentile signora, mi riferisco alla sua lettera del 31 marzo 2010, fatta pervenire all'indirizzo del Capo dello Stato, nel merito di quanto prospettato, pur comprendendo le motivazioni ed il coinvolgimento morale ed emotivo che hanno originato la sua istanza, devo, mio malgrado, informarla che risulta impossibile intervenire su materie regolate da specifiche disposizioni di legge, la cui applicazione spetta ai competenti ministeri e su cui la Presidenza della Repubblica non può in alcun modo intervenire. Strano, visto che il Presidente della Repubblica firma sempre su tutto, anche sulla carta igienica. Premesso quanto sopra, la informo che la sua istanza è stata nuovamente portata all'attenzione del competente Ministero della Difesa per un sollecito esaustivo diretto riscontro. Rammaricato di non poterle fornire migliore risposta, ne invio i miei più cordiali saluti. La firma è leggibile, comunque c'è scritto l'assistente militare per l'aeronautica. Quindi com'è che qui c'è scritto che questa è una materia regolata da specifiche disposizioni di legge? C'è una legge che ha scritto che ci devono fumigare, come dicono gli spagnoli? Evidentemente sì, solo che non ne abbiamo avuto comunicazione. Certo. Certo, è uno dei soliti accordi che rimangono secretati e magari sono appannaggio solo i vertici più elevati del potere. Il famoso piano dettagliato Italia-USA per la modifica climatica, che è un accordo stipulato nel 2003 tra l'allora Presidente Bush e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è un accordo che poi all'epoca era gestito dal fratello di Prodi, che era a capo del CNR per quanto riguarda questa specifica competenza, e si parlava appunto di modificazione climatica e di sottoporre i sistemi idrogeologici a determinate condizioni di stress in modo tale da vedere l'effetto che faceva. Quindi questo è chiaramente un dispositivo di legge. Certo, un'ultima domanda, se mi consenti. Ecco, tu sai che la nostra radio ha cari i temi ufologici, noi ci occupiamo di divulgare quelli che sono gli studi e le ricerche del professor Corrado Malanga per quanto riguarda il fenomeno delle abduction e tutti gli aspetti, diciamo, connessi a questa fenomenologia. Da qualche parte ho letto che si sono fatte delle ipotesi di una eventuale connessione tra scie chimiche, tutta questa impalcatura, tutto questo dispiegamento di risorse, di logistica per irrorare il pianeta e per disperdere queste sostanze e gli alieni o comunque cose che potrebbero essere implicate, così diciamo in termini molto generici, a quelle che sono le interferenze aliene o a quelle che sono in sostanza anche degli accordi, se vogliamo, o anche delle azioni svolte a favore o contro, non lo so, ma comunque collegate ad una volontà che sarebbe extraterrestre. Ti risultano, volevo chiederti se ti risultano dalla tua posizione privilegiata di ricercatore in questo settore, quindi hai raccolto informazioni anche a livello internazionale, se ti risultano delle ipotesi di lavoro di questo tipo e molto velocemente di che cosa si tratta in sostanza. Sì, intanto bisogna dire che il fenomeno degli avvistamenti UFO, o appunto la parola lo dice chiaro, lo spiego per chi, chiaramente voi siete più preparati di me, ma comunque UFO, oggetti volanti non identificati. Quindi se si tratta di oggetti volanti non identificati, non è detto che dobbiamo per forza parlare di extraterrestri, no? Però noi abbiamo notato che è iniziato un fenomeno di avvistamento di UFO, quindi di oggetti volanti non identificati, contestualmente all'inizio delle irrorazioni su questa zona dove io chiaramente ho più spazio di osservazione. Quindi, contestualmente alle attività chimiche, ho visto che anche in altre zone d'Italia e del mondo sono state spesso osservate, fotografate e riprese delle sfere, che spesso e volentieri però si trovano in presenza di cumuli e cumulonimbi. Sembra che il loro nascondiglio, diciamo così, anche se poi comunque di solito possono nascondersi nello spettro dell'infrarosso, però spesso vengono notate nella vicinanza dei cumuli e dei cumulonimbi, che casualmente vengono pedissequamente distrutti dalle irrorazioni chimiche. Infatti vediamo dei cieli apparentemente sgombri e soleggiati, come ce li descrivono nelle previsioni meteorologiche, ma sono cieli stranamente privi di nubi, cioè sono privi di umidità perché l'atmosfera è carica di metalli elettroconduttivi e di igroscopici, per cui sono cieli innaturali e chiaramente non sono cieli sereni, ma cieli chimici sempre. Però con questi cieli chimici e sereni, apparentemente privi di nubi, non si vedono oggetti volanti non identificati. Al contrario, invece, se noi vediamo delle giornate dove ci sono ancora molti cumuli e cumulonimbi e magari si comincia a notare qualche aereo, si nota subito la presenza di oggetti volanti non identificati, che spesso possono essere ripresi agevolmente. Questo cosa significa? Può significare che, come c'era stato anche descritto da un altro militare, nel 2007, questa volta un ex militare italiano che si era a suo tempo occupato anche di uranio impoverito, è probabile che queste attività extraterrestri o ultradimensionali arrecano un determinato fastidio per le attività di aerosol clandestine. E questo militare ci faceva anche capire che probabilmente buona parte di queste operazioni vengono attuate, specialmente in alta atmosfera e non quelle che vediamo noi in bassa atmosfera, per limitare o impedire l'ingresso di navi o o comunque ordigni che non fanno parte della nostra dimensione o comunque non sono terrestri. Quindi questa prendiamola come una velina che mi ha passato un militare, che potrebbe essere vera o non vera, però certo è che da un punto di vista dei riscontri io posso notare che laddove l'attività di aerosol è molto elevata, tanto da eliminare la presenza dei cumuli, non riusciamo più a vedere oggetti volanti non identificati, tipo le famose flotillas, che spesso si vedono in Messico in prossimità di grosse formazioni nuvolose. E invece, appunto, se l'atmosfera è intrisa di elementi elettroconduttivi e metalli, sembra che sia un'atmosfera non idonea alla presenza di questi oggetti volanti, che appunto non vengono più avvistati. Quindi potremmo anche mettere nel calderone tra gli obiettivi una attività di contrasto all'intromissione nella nostra atmosfera di astronavi aliene o ultradimensionali. Certo. Certo, ci sono un paio di domande dai nostri ascoltatori. Qualcuno ci chiede, ad esempio, se, così ne approfitto insomma prima di chiudere per dare un po' di voce anche a loro. Qualcuno ci chiede, ad esempio, se in Italia ci sono delle zone dove queste irrorazioni vengono fatte in maniera più massiccia rispetto ad altre. E questo mi fa venire in mente anche, ce l'ho qua, me la sono stampata oggi, ecco, che qualcuno sul nostro blog, per esempio, aveva postato un'altra domanda simile, chiedendoci appunto, era Renata, credo, sì, e chiedendoci appunto se ci sono dei, se tutto il mondo, tutte le nazioni del mondo sono irrorate da particolato, oppure se ci sono delle zone dove queste operazioni non avvengono, sono completamente escluse da questi rilasci. E sempre Renata ci chiede anche come se sono consci, se si rendono conto questi soggetti che insomma si occupano, che fanno queste irrorazioni, quindi presumo dai piloti agli organizzatori di tutta questa operazione, se sono consci del fatto che comunque questa roba in qualche maniera colpisce anche loro, insomma un po' il discorso che ti facevo notare io prima, anche loro, i loro cari, o comunque insomma è un po' un tirarsi la zappa sui piedi questa cosa qua, insomma. Ma tempo fa un militare confessava, e questo è il terzo militare che ci aveva fatto questa confessione particolare, era un po' brillo, ma lui disse che mirava a fare più grano possibile il più presto possibile, in modo tale da potersene andare da qualche altra parte, perché sicuramente quello che stavano facendo non faceva bene alla salute di nessuno. Detto questo, per rispondere alla tua domanda iniziale, qualunque Stato possegga un esercito, oggi come oggi non può rinunciare alle irrorazioni, perché tutti i sistemi radar e di comunicazione satellitare funzionano in modo tale che l'atmosfera non deve essere umida e deve essere particolarmente elettroconduttiva. Tant'è che per esempio la Cina, come la Russia, come la Thailandia, usano queste attività di aerosol con estrema naturalezza, e soprattutto in Thailandia addirittura vengono realizzati degli spot divulgativi nei quali viene spiegata come viene inseminata la nube, cioè loro ufficialmente ti spiegano che serve per l'inseminazione delle nubi per procurare la pioggia nelle zone dove non piove abbastanza, però perlomeno loro ti fanno vedere l'animazione con l'aereo che rilascia la scia ad altezza cumulo, che poi è quello che vediamo noi, e lì ti ammettono, addirittura in Cina c'è il Ministero per la Modificazione Meteorologica, almeno lì lo ammettono, invece qui in Italia si dice che la modificazione meteorologica non è possibile, in quanto non sarebbe possibile intervenire su un'area ampia con le tecnologie che abbiamo oggi, cosa che non è affatto vera, tant'è che per esempio già all'epoca di Chernobyl, per impedire che venisse giù la pioggia radioattiva dalle parti di Mosca, venne fatto piovere attraverso l'uso di aerei che spruzzarono in modo adeguato, venne fatto piovere sull'Ucraina, pioggia radioattiva. Lo stesso hanno fatto qui in Italia, perché quando è arrivata la nube radioattiva, il giorno dopo hanno iniziato a sparare a più non posso schifezze sulla zona occidentale d'Italia, quindi tra Piemonte e Liguria, in modo tale da creare un muro ed impedire che la nube radioattiva arrivasse sul Lazio. Tant'è che quella giornata un testimone dichiarò sul nostro blog che strano, oggi la giornata è bellissima, non c'è neanche una scia, il cielo è limpidissimo. Infatti dalle satellitari risultava un muro lungo centinaia di chilometri lungo tutta la fascia dell'Italia, partendo dal nord fino a tutta la Sardegna. Era un muro di nubi artificiali create dalle irrorazioni chimiche che aveva creato una barriera, tant'è che sul resto dell'Italia centrale e meridionale non c'era neanche una nuvola ed il cielo era limpido. Quindi anche qua sono in grado evidentemente di usare le irrorazioni per qualsiasi tipo di necessità, certo. E anche per impedire che magari una nube radioattiva arrivi sulla zona dove abbiamo i nostri amati governanti che poi magari cominciano a tossire. Certo, certo. Teniamoli protetti finché è possibile. C'è un'ultima domanda di un radioascoltatore che ci chiede se quando parliamo di militari italiani o anche di altre nazioni. È ovvio, tu prima hai già risposto implicitamente a questa domanda dicendo che chiunque abbia un esercito, proprio per il tipo di tecnologie che vengono messe in campo, è necessario poi far ricorso a queste operazioni di irrorazione che abbiamo visto sono legate anche a questioni tecniche proprio per far funzionare, per ottimizzare gli strumenti di trasmissione, eccetera. Volevo concludere chiedendoti appunto di darci delle informazioni, dei riferimenti bibliografici oppure dei riferimenti anche di siti internet, eccetera, affinché i nostri radioascoltatori possano documentarsi, approfondire ulteriormente questo argomento che, come abbiamo sentito, è molto complesso. Ci sono in campo tanti aspetti, tante sfaccettature che anche sul piano tecnico hanno tante cose da approfondire e da studiare, e so che c'è molto, specialmente negli Stati Uniti, all'estero purtroppo, ma anche qua in Italia, voi per esempio del comitato Tanker Enemy dite la vostra attraverso il vostro blog, e come voi ce ne sono altri. Quindi lasciamo ai nostri ascoltatori qualche riferimento bibliografico prima di chiudere. Sì, intanto voglio rispondere alla domanda dell'ascoltatrice che mi è sfuggito poi l'ultimo pezzo, e poi mi riaggancio alla richiesta che mi hai fatto adesso, cioè l'ascoltatrice chiedeva quali sono le zone più irrorate. Sicuramente le zone più irrorate sono quelle dove ci sono più perturbazioni da deviare o da dissipare, quindi la zona nord-occidentale d'Italia è sicuramente la più battuta, quindi parlo del Piemonte e della Liguria, come anche ci sono altre zone per quanto riguarda la questione di altre correnti che possono arrivare dal nord Europa e che sono per esempio il Veneto. Poi ci sono necessità anche dovute ad attività radar, e quindi ultimamente abbiamo visto un incrementarsi delle irrorazioni chimiche che invece fino a qualche anno fa erano quasi assenti sulla Sicilia, laddove adesso sono stati installati nuovi tipi di radar che funzionano sempre in bassa frequenza. Riferimenti bibliografici. Chiaramente, a parte il nostro blog, che è appunto tankerenemy.com, e il riferimento al canale video tanker-enemy.tv, che aveva già menzionato Caruso, l'amico Caruso, c'è il blog del nostro amico Corrado Penna, del quale adesso però non ricordo esattamente il link, perché è un link di Blogspot abbastanza lungo. Comunque La Scienza Marcia, basta cercare La Scienza Marcia di Corrado Penna, si trova il sito. Poi in linea di massima diciamo che come riferimenti in lingua italiana non è che c'è granché. Posso sicuramente dare il link al sito di Clifford Carnicom negli Stati Uniti, che è appunto www.carnicom.com, e poi basta. Bisogna fare attenzione a quello che si cerca sulla rete. Sicuramente se cercate Rosario Marcianò troverete una marea di siti che dicono che sono completamente malato e truffatore, e questi sono i siti gestiti dai disinformatori finanziati dal dal nostro amato istituto governativo, diciamo così, non vado oltre, è gente che comunque lavora 24 ore su 24 su questo argomento, diciamo così, a contrastare le nostre attività, quindi sicuramente non è gente che campa di altri stipendi, ma evidentemente viene stipendiata solo su questo. Quindi bisognerebbe fare attenzione a quello che si trova, cercare di discernere con la propria testa su quello che si legge e cercare di capire bene come stanno. Faccio un esempio banale, così non vado oltre. Una mia amica l'altro giorno mi telefona e mi dice: ma senti, ma io ho letto sul blog di Palle Quadre che per te l'unico problema sono le scie chimiche, mentre l'inquinamento in Sardegna dovuto ai poligoni militari è una cosa che non dà assolutamente fastidio, ma che anzi per il quale tu sei favorevole. Ma dico io, a me una cosa del genere non mi è capitata, dove l'ha letto questo qui? Dico, no, non è possibile, chiaramente sta scrivendo quello che sta scrivendo perché chiaramente deve in qualche modo trovarsi dalla parte della ragione e in qualche modo diffama il sottoscritto scrivendo delle cose che non corrispondono a verità. E addirittura questa mia amica mi conosce abbastanza bene, ma gli era rimasto il dubbio perché su questi blog le cose vengono fatte, scritte in maniera perfetta, quasi attendibile, per cui è facile, se non si conosce bene la persona o se non si conoscono bene i fatti, è facile farsi ingannare da questi che appunto, secondo terminologia vengono propriamente detti disinformatori. Tra l'altro, voglio qui chiudere, c'è un dettame che è tipico dei servizi segreti che dice questo, e era scritto anche su un libro di un giornalista americano che si occupa di servizi, si occupa di attività di spionaggio e via dicendo. Questo Lutbach si chiama questo giornalista, in questo libro scrive quali sono le tecniche dei servizi, cioè in uno stato democratico, lui raccomanda, l'oppositore del sistema non deve essere ucciso, perché se no chiaramente gli facciamo un favore, in quanto poi si parlerebbe di questa cosa e verrebbe dato troppo credito a quello che il disturbatore del sistema affermava. No, questa persona deve essere dileggiata, portata al ridicolo, diffamata, distrutta, isolata. È quello che stanno cercando di fare i disinformatori oggi in Italia, ripeto, pagati da qualcuno, sicuramente non da me. Bene Rosario, sì, tra l'altro ci abbiamo fatto anche proprio una puntata noi sulla disinformazione, sul debunking, sulla manipolazione, sul ruolo dei media appunto nel rappresentarti la verità ufficiale. Direi che per questa sera ci hai dato un quadro più che esauriente, io ti ringrazio veramente tanto e so di farlo a nome anche dei nostri radioascoltatori, di chi ci sta ascoltando, ci hai regalato un lucido spaccato di verità per quanto riguarda questo fenomeno. È stato per me un piacere star qua con te ad Grazie. intervistarti e a parlare di queste cose. Io, visto ormai l'orario, abbiamo decisamente sforato, non mi resta che ringraziarti, salutarti. Spero in qualche maniera di averti ancora in trasmissione o comunque che ci siano altre occasioni per darti voce. Io saluto anche tutti i nostri radioascoltatori, ne approfitto per farvi i miei migliori auguri di buona Pasqua a tutti quanti e direi di dare la parola al nostro conduttore, Caruso Colzi per chiudere questa puntata e per completare la trasmissione. Buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie Michele, grazie, sei stato bravissimo e gentilissimo e spero di potervi sentire ancora, volentieri. Grazie. Allora, intanto ringrazio anch'io Michele. Senti, Rosario, mi stavo chiedendo questa cosa. Prima di lasciarti, sai che io faccio delle domande molto più terra-terra, no? E come saprai benissimo, digitando scie chimiche su Google troviamo un sacco di link. E mi stavo chiedendo, se dovessi fare un bilancio, che percentuale di bufale ci sono in rete sull'argomento scie chimiche? Ma intanto il termine bufala è già un termine che è stato coniato da Paolo Attivissimo e quindi è fuorviante già in questo senso. Quindi io non lo adotto perché non mi ci trovo. Però se vogliamo parlare di dati inattendibili, questi sicuramente fanno riferimento ai siti della disinformazione, perché dal mio punto di vista io quando leggo certe cose mi si accappona la pelle, perdo i pochi capelli che mi sono rimasti, perché non è possibile leggere certe cose, come dire, leggere che le scie di condensa, secondo quello che dicono gli scienziati, si formano anche ad umidità zero e a quota zero, perché una cosa del genere chiaramente non sta né in cielo né in terra, lo possiamo verificare tutti anche nel bagno di casa quando apriamo la doccia con l'acqua calda, proviamo a far venire le goccioline sulle pareti senza aprire la doccia, no? Quindi chiaramente le bufale, come le intende attivissimo, le vere bufale sono quelle che nascono dai siti di disinformazione. Invece devo dire che poi in realtà c'è tanta buona volontà da parte di decine e decine di siti, che non cito solo perché ho una scarsa memoria per queste cose, quindi se non ho mio fratello che mi suggerisce i link, lui ha una memoria micidiale per queste cose e farebbe subito una raccolta dei vari siti di riferimento. Però ci sono molti volenterosi in Italia, come soprattutto all'estero, ma soprattutto negli Stati Uniti, che creano una mole enorme di dati e di riferimenti. Faccio un esempio banale: già anni fa era stato eseguito uno studio sulla non identificabilità dei velivoli chimici sul radar, che infatti non venivano tracciati in quanto viaggiano tutti col trasponder spento, o comunque con delle metodologie di disturbo radar. E questo studio poi fu confermato da noi stessi attraverso apparecchiature consimili. E questo studio era del 1997-98, quindi erano già avanti. E devo dire che poi, per esempio, se facciamo il nome di Clifford Carnicom, è il punto di riferimento base per quanto riguarda studi approfonditi non solo sui fenomeni atmosferici, ma anche sui riscontri chimici e biologici di ricaduta, no? Delle sostanze che vengono irrorate. In Italia spesso e volentieri c'è una buona dose di siti che rilanciano gli articoli, magari che sono stati anche pubblicati sul nostro sito o su quello di Corrado Penna. Questo fa anche bene perché chiaramente il moltiplicarsi delle informazioni, anche se ridondanti, crea un circolo virtuoso che permette la divulgazione delle informazioni, è quello che vogliamo noi. Quindi ti devo dire, bufale, come le definisce attivissimo, in giro per quanto riguarda i siti di attivisti non ce ne sono, per quello che so io. Magari c'è qualche osservazione un po' ingenua, come quello che dice: ma sì, ho visto delle scie di condensa perché non persistevano, ma lì è dovuto purtroppo alla informazione errata che è stata mandata avanti negli anni anche da ricercatori indipendenti in buona fede, che ancora adesso spesso non riescono a notare che quelle, pur essendo a bassa quota, non possono essere scie di condensazione. Quando un aereo viene distinto nei dettagli, chiaramente non può essere a 11.000 metri. Poi l'esempio banale che io faccio sempre è che se abbiamo una visibilità massima di 3 miglia, non è possibile che in atmosfera possiamo vedere una serie di aerei che passano e che poi ci dicono che sono a 11.000, perché se la visibilità massima è 3.000 e 4.000 metri, 4 km, non è possibile avere una visibilità totale e vedere degli aerei e distinguerli nei dettagli se volano a 11.000. Questo non è possibile, no? Quindi, per chiudere, l'idea che ci siano dei siti inaffidabili da parte degli attivisti in generale, non penso che sia concreta. Senti Rosario, io ti ringrazio. Sei una persona preparata e competente con uno spirito fortissimo, davvero. Grazie. Grazie di essere stato con noi e di averci fatto regalo delle tue informazioni. Grazie a voi, soprattutto perché adesso diffondete le informazioni, mettete online la registrazione. Io volentieri la metterò anche sul nostro blog, e sul canale video. Quindi il ringraziamento va a voi che con questa buona volontà e con questa dedizione veramente ammirevoli mi permettete di diffondere il mio pensiero, altrimenti chiaramente io potrei avere tutte le buone capacità e buone intenzioni, ma se non c'è un tramite non potrei fare niente. Quindi il ringraziamento particolare va a voi. Ci lusinga moltissimo, ci saranno anche altre occasioni, vedrai altri modi per averti ancora in onda con noi, lo speriamo veramente grazie, Caruso, vivamente. Ti auguro una buona serata e adesso chiamo la chiusura. Cari ascoltatori, siamo arrivati anche stasera in fondo a questa splendida puntata di Radio UFOcast. Siamo sicuri che il tema da noi trattato stasera vi è piaciuto, se non fosse altro che abbiamo parlato di cose che hanno a che fare con la vita di tutti noi. Ovviamente vi ripeto che la puntata di stasera la potrete trovare scaricabile sul nostro sito http://ufocast.ufomachine.org, dove potrete anche lasciarci i vostri commenti e le vostre domande e perché no leggere anche i blog di Tiziana Pompili. Importante, ricordatevi che la puntata sarà possibile anche scaricarla sul sito di Rosario Marcianò, visto che ci ha detto che ci farà questo piacere di postarla anche nel suo sito. Vi racconto subito qual è il suo sito: www.tankerenemy.com oppure www.tanker-enemy.tv. Dateci un'occhiata perché è veramente ricco di informazioni, molto ben fatto. Vorrei ringraziare ancora una volta Michele per il lavoro svolto stasera. Ci sei, Michele? Sì, Caruso, ci sono, stavo preparando appunto la sigla perché questa sera sono nel duplice ruolo di intervistatore, sono stato nel duplice ruolo di intervistatore Regista. e di parte tecnica, quindi ho un po' di cose da seguire. Di nuovo buonanotte a voi, è stato veramente un piacere e ai nostri radioascoltatori. Benissimo, allora ragazzi, ci tengo a dirvi che il prossimo venerdì avremo in onda qualcuno che ha a che fare con il cinema e che ha in uscita il suo bellissimo film, ma non vi dirò altro, di modo che la curiosità vi accompagni sino al nostro sito per informarvi al meglio, ok? Vi ricordo ancora una volta che noi ci ritroveremo qui di nuovo il prossimo venerdì, sempre dalle ore 22 alle ore 24. E sicuramente i miei più bei ringraziamenti vanno a voi, radioascoltatori, che ci date modo di continuare il nostro percorso e ci riempite di complimenti. Grazie mille davvero e un augurio di buona Pasqua da parte di tutti noi. E ora, da Caruso Colzi e dalla redazione di Radio UFOcast, una buona seratona a tutti! Followed me in.